Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. La storia che noi oggi raccontiamo è la dimostrazione che si può volare in alto anche se la natura ti ha fatto nascere alto quasi 2 metri, ti ha fatto pesare più di 100 kg, ti ha dato un piede numero con la scarpa numero 47. Il nostro protagonista è un uomo popolarissimo che ha speso una vita nel cinema, ha fatto 120 film dopo aver avuto un passato da atleta di primissima grandezza, un passato che l'ha portato a partecipare a ben 3 Olimpiadi. Ma la cosa particolare di questa puntata è che è stata una puntata che ci è stata sollecitata da un ascoltatore e fin qui non è la prima volta. Questo ascoltatore si chiama Alessandro. Ciao. Quanti anni hai, Alessandro? Ho 10 anni. Caspita, 10 anni e segui il Falco e il Gabbiano? Sì, l'ho scoperto perché mio papà è un fanatico di Radio 24 e ascoltando per caso mi è capitato questo programma e ho scoperto che mi piace ascoltare le storie. Sei fantastico, che Dio ti benedica. Senti, perché vuoi che io parli di Bud Spencer? Oddio, perché ho scelto Bud Spencer perché è uno degli attori italiani, secondo me, migliori. E perché fa film che anche senza parolacce sono molto comici. Oh, Alessandro, senti, io ti ringrazio, sei stato un grande e continua a ascoltarci al Falco e il Gabbiano. So che suoni anche la chitarra. Sì, suono anche la chitarra. Bravo, beh, caspita, ti avvia a essere un grande giovanotto. Un abbraccio da tutti noi. Ciao Alessandro. Grazie, ciao. Il mio nome vero è Carlo Pedersoli, nato a Napoli, poi diventato Bud Spencer. Bud Spencer è nato con il nome molto più italiano di Carlo Pedersoli, napoletano, classe 1929, uno dei personaggi più popolari della nostra cinematografia, soprattutto in coppia con un altro italiano che si chiama in realtà Mario Girotti, ma è conosciuto da tutti per un nome d'arte americano, Terence Hill. Carlo Pedersoli, tutti lo conosciamo per gli spaghetti western, per le commedie ricche di schiaffoni che lui dava molto più di quelli che prendeva, anzi non le prendeva mai, risse, film girati magari in ambientazioni esotiche. Bene, lui ha un passato di atleta e di nuotatore formidabile, ha all'attivo 3 Olimpiadi e tantissime passioni come quella della musica e quella del volo che ha coltivato per tutta la vita, insomma la dimostrazione vivente di quanto un colpo d'ala possa essere seguito da un altro colpo d'ala in un altro settore, e quindi è uno che mi piace particolarmente perché quelli che fanno tante cose nella vita hanno tutta la mia ammirazione. Nasce a Napoli, il rione è il Santa Lucia, il 31 ottobre del 29, e la leggenda narra che alla nascita pesi 6 kg. La sua è una famiglia benestante, il padre Alessandro Pedersoli è un industriale del settore dell'arredamento, fornitore della Real Casa, come si leggeva in un vecchio documento, la madre Rosa è di origine bresciana, ma la famiglia è napoletana al 100%. I Pedersoli vivono nello stesso palazzo dello scrittore Luciano De Crescenzo, quasi coetaneo di Carlo, fanno le scuole elementari assieme. A scuola lui va bene, anche se il comportamento è quello di un ragazzino particolarmente vivace, come ricorda Vera, che è la sorella. Faceva delle cose un po' acrobatiche. Una volta mi ricordo che dalla sua camera si è lanciato nel terrazzo di sotto, non tanto alto però, ha sfondato i vetrini che c'erano di un teatro, così è rimasto con le braccia allargate a mezzo busto, con le urla di mia madre. Questo per dire che era un ragazzino vivace. Eh sì, il buongiorno si vedeva già dal mattino, fin da piccolo ha delle doti fisiche notevoli, insomma si appassiona a vari sport, però il suo talento lo esprime soprattutto nel nuoto. A 8 anni è già nella canottiera di Napoli, però la famiglia deve cambiare città per ragioni di lavoro e nel 40 ci si sposta a Roma, e a Roma Carlo entra in una squadra di nuoto e poi nella formazione di rugby del suo istituto. Arrivano le prime gare, i primi risultati, buoni voti scolastici. A 17 anni si iscrive all'Università di Roma, facoltà di chimica. Poi deve abbandonare gli studi quando la famiglia si trasferisce di nuovo, e questa volta si va dall'altra parte del mondo, in Brasile e il Sud America. Alcuni anni dopo avrà un ruolo molto importante nella sua vita. Qualche anno in Brasile, poi nel 1950 si torna in Italia, a Roma, e Carlo viene tesserato dalla Lazio Nuoto e poco più che ventenne comincia la sua vera e propria carriera sportiva, e i successi sono immediati. Vince i campionati italiani nella specialità dello stile libero e nelle staffette, e gli esperti raccontano che il suo modo di nuotare è frutto di un talento innato. Quando nuota muove pochissima acqua, quella che si chiama sensibilità periferica, come se i suoi piedi e le sue braccia riescano a trovare sempre il movimento giusto per creare meno attrito possibile. Il risultato è che nei 100 metri è velocissimo, in questa distanza entra presto nella storia, perché nel 50 ferma il cronometro a 59 secondi e 5 decimi, e nei due anni successivi scenderà ancora 58 e 2. Ci permetta Usmiani, l'allenatore, di andare a scoprire sott'acqua gli accorgimenti con cui un Pedersoli è riuscito a battere il nuovo primato italiano dei 100 metri stile libero con 58 secondi e 2 decimi. Però il talento è paradossalmente il suo problema, perché essendo così dotato dalla natura non ha molta voglia di allenarsi. Sentiamo un ricordo dello stesso Pedersoli. Io nei 50 metri stile libero facevo i tempi di adesso dei campioni del mondo. A 100 metri, siccome fumavo, 70 metri, 80 metri che finiva in buonanotte. E prima di trovare la sua strada nel nuoto, lui però pratica anche la pallanuoto e dei grandi risultati, e non smetterà neanche quando arriverà nella nazionale di nuoto nel 49. Insomma, il futuro Bud Spencer nel 49 partecipa ai campionati europei a Vienna, arriva in due finali, si piazza quinto nei 100 metri, e le prime medaglie d'oro sono datate 51, giochi del Mediterraneo, Alessandria d'Egitto. È secondo sia nei 100 sia in una staffetta anomala per i tempi, 3% mista. In quegli anni prova anche a riprendere gli studi universitari, si iscrive a giurisprudenza, non arriverà mai a conseguire la laurea, anche perché nel frattempo il suo fisico imponente statuario viene notato e Carlo incrocia per la prima volta il mondo del cinema. È il 1950, interpreta una piccolissima parte nella produzione hollywoodiana per eccellenza, il film Quo Vadis, e negli anni della carriera sportiva comunque parteciperà a altri film in ruoli minori, il più famoso dei quali in una pellicola del 55 firmata da Mario Monicelli. Il falco e il gabbiano. Insomma, la vita di Carlo Pedersoli comincia a muoversi in due binari. In uno è Carlo Pedersoli, nell'altro diventerà Bud Spencer. E tanto vince campionati italiani e comincia però a incontrare il cinema. Piccole parti che gli permettono di continuare a allenarsi, però alcune sono in film importanti, uno su tutti. 1955, Un eroe dei nostri tempi, protagonista Alberto Sordi, regia di Monicelli, e lui interpreta Nando, un fidanzato geloso piuttosto manesco. Ma perché me lo apprezzo che io neanche la conosco a lei? No, io prima te gonfio e poi parliamo. Ma ragioniamo da uomo a uomo, no? Ah, non me conosci? No. A Marcella la conosci però? Beh, io sono Fernando. Vai, voglio vedere come entri a casa, io ti aspetto qui tutta la notte. E io non dormo a casa stanotte. E io ci torno pure domani. E io non ritorno neanche domani. Vabbè, un po'. Gli anni 50 sono il decennio delle grandi soddisfazioni sportive per Carlo Pedersoli. Olimpiadi, Helsinki 52, e poi alcuni mesi negli Stati Uniti, ospite dell'università Yale, e poi i Giochi del Mediterraneo di Barcellona come pallanuotista della nazionale, medaglia d'oro. E poi la seconda Olimpiade a Melbourne, dove arriva fino alle semifinali dei 100 metri stile libero, e soddisfazioni che a un certo punto finiscono naturalmente. Sentiamo lo stesso Pedersoli in un'intervista tratta da un documentario realizzato dal figlio Giuseppe Pedersoli, che tra un po' mi sa che andremo a disturbare. Essendo a quei livelli sempre mondiali, campione eccetera, mi sentivo veramente un essere superiore, perché quando tutti ti osannano, i migliori alberghi, i migliori viaggi, la sera ero così come ti ho detto io, la mattina dopo è arrivato un altro e tutto quello che era mio se l'è preso quest'altro. È diventato il nuovo campione. Mi ha sostituito perché aveva 10 anni meno di me, io non lo di più, non mi ricordo. E non è che eravamo nemici o qualche cosa del genere, ma io ero finito, avevo 27 anni, finito con lo sport. E mi sono domandato, che so fare io prima di tutto? Devo sapere che cosa posso fare, ai Parioli non posso sapere. Insomma, 27 anni ed è già il momento della svolta e delle grandi decisioni. La carriera sportiva è al declino e bisogna reinventarsi una vita. E si torna in quel Sud America conosciuto da bambino. Questa volta si va in Venezuela. Lui lavora alla costruzione della Panamericana, che era la mitica strada di collegamento tra Panama e Buenos Aires. Poi va a Caracas e trova lavoro all'Alfa Romeo. Intanto continua a praticare nuoto ad ottimi livelli con la squadra nazionale venezuelana e mette fine a questa esperienza nel 59, quando, finito il periodo sudamericano, si torna in Italia e qui gli viene offerto un ruolo in un film epico, Annibale, una pellicola che oggi è quasi dimenticata, però è importante almeno per lui perché è il primo set condiviso con il suo futuro partner cinematografico Mario Girotti, Terence Hill. Noi ci siamo incontrati per la prima volta sul set, perché io di corsa venni dall'Italia a sostituire questo altro attore che si era rotto il piede, e ci incontrammo sul set, mi metto il costume là, lui stava lì, ah ciao, basta, fu così questo incontro, che però da quel momento andò crescendo. In quel film Pedersoli e Girotti non girano mai scene assieme, e però è l'inizio di quella che sarà un'amicizia, un sodalizio, una coppia tra le più famose della storia del cinema. Intanto lui riesce a partecipare alla sua ultima Olimpiade, quella del 60 a Roma. Non ha risultati di rilievo, ma c'è. E in quello stesso anno sposa Maria, la ragazza che aveva conosciuto 15 anni prima, più giovane di lui di 6 anni, è la figlia di un importante uomo del cinema, un nome che per i cinefili ha una grossa importanza, Peppino Amato, la persona che produsse capolavori del nostro cinema, tra tutti direi La dolce vita di Federico Fellini. Ci sono degli uomini che sono felici quando trovano qualcuno che gli vuole bene e non vanno in giro a cercare altre donne. Sei tu, solo tu che sei così. È una disgrazia, una disgrazia. Ma io sono un disgraziato! E la mia disgrazia è di aver incontrato te! Hai capito? Non ne posso più di averti vicino! Vattene via! Ma vattene una volta per sempre, vattene! Carlo comunque non sembra interessato al cinema, malgrado la parentela importante, comincia a scrivere testi di canzoni per cantanti come Ornella Vanoni, Nico Fidenco, firma delle colonne sonore, e poi per caso, anzi diciamo per debiti, arriva alla recitazione. Lui racconta che nel 67 il regista Giuseppe Colizzi gli offre un ruolo in un western. Pedersoli chiede 2 milioni, deve onorare 2 cambiali in scadenza, Colizzi offre la metà, non se ne fa nulla perché Carlo non sa andare a cavallo, non vuole farsi crescere la barba come la parte richiede. Nel 67 avvenne la famosa telefonata. Il discorso con Colizzi è stato meraviglioso. Lui telefonò a casa a mia moglie e disse: ma suo marito è sempre così grosso e forte come era quando faceva le Olimpiadi? E mia moglie disse: no, più grosso perché mangia e non fa sport, quindi è ancora più grosso. Però perché gli vorrei parlare? Vabbè, vado lì e mi dice: parli inglese? No. Ti sei mai fatto crescere la barba? No, dico: me ne faccio tutte le mattine. Sei andato a cavallo? No, io non ho mai visto un cavallo in vita mia, se no hai corso al trotto. Poi mi ha detto: quanto vuoi? E io gli risposto: che devo fare? La trattativa prosegue però, perché Colizzi ha bisogno proprio di un attore con quel fisico, insomma alla fine accetta le condizioni di Pedersoli, che a quel punto inizia a lavorare e diventa a tutti gli effetti un attore. E il film è Dio perdona, io no. Con lui sul set c'è Terence Hill. Avermi tirato fuori da quella pozzanghera non ti dà il diritto di decidere quello che devo o non devo fare. In quella pozzanghera, come la chiami tu, avrei fatto molto meglio a lasciartici. Nasce una coppia cinematografica che diventerà inossidabile, quella tra Pedersoli e Girotti, che, poi vi spiegheremo come, stanno per cominciare a farsi chiamare da tutti Bud Spencer e Terence Hill. Il Falco. e il Gabbiano. Vi stiamo raccontando la storia di Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, con una vita avventurosa passata prima dallo sport, poi dalla musica e poi approdata al grande cinema, quasi sempre assieme a un altro italiano dal nome d'arte americano, Terence Hill. È proprio dalla nascita di questa storica coppia che ripartiamo nel nostro racconto. Lo abbiamo detto, il film Galeotto, il film che segna la nascita della coppia, è Dio perdona, io no, di Giuseppe Colizzi. Lui ci è arrivato quasi per caso, Pedersoli, è una pellicola western. I nomi però, Pedersoli e Girotti, sono evidentemente dei nomi inappropriati, troppo italiani, bisogna cercare il pubblico internazionale. Ai due viene consigliato di trovare nomi d'arte e Pedersoli sceglie Bud Spencer. Bud come la birra Budweiser, la sua preferita, Spencer come Spencer Tracy. Bud Spencer e Terence Hill gireranno assieme 18 film, in 16 dei quali saranno la coppia principale. Kakopoulos, che razza di nome! È un nome greco. Mio nonno era greco. Greco come Socrate, Aristofane, Pitagora, Omero. L'epoca del western all'italiana, i cosiddetti spaghetti western, in realtà aveva già vissuto il suo apice, però Spencer e Hill ci mettono una vena nuova, una sorta di ironia che rinfresca il genere. E Spencer recita con Colizzi in altre pellicole come I Quattro dell'Ave Maria, La Collina degli Stivali, e sempre del genere western, il film che nel 70 regala alla coppia il successo più grande, il mitico, lo chiamavano Trinità. La regia è di Klücker, che altri non è che un italianissimo Enzo Barboni, e il film diventa immediatamente un cult in Italia, ma anche all'estero, soprattutto in Germania. L'anno dopo, sull'onda di questo successo, esce il sequel. Continuavano a chiamarlo Trinità. È ancora un risultato eccezionale al botteghino in tutta Europa. Bud Spencer e Terence Hill diventano due star internazionali. È decollata la carriera di attore di Bud Spencer e lui passa attraverso generi diversi. Nel 71, per esempio, gira Quattro mosche di velluto grigio per Dario Argento, e poi c'è la pellicola di denuncia Torino Nera di Carlo Lizzani. Sono lavori importanti, però la popolarità e il successo di questi film non sono paragonabile a quelli dei film con Terence Hill. Intanto lui ha avuto due figli da Maria Amato, Giuseppe del 61 e Cristiana del 62. Poi arriva la terza figlia, Diamante, che anni più tardi lavorerà come attrice con il padre. Nei primi anni 70 arriva un'altra saga destinata a fare epoca, la saga di Piedone. È stata pensata dallo stesso Bud Spencer. Lui interpreta il ruolo di un poliziotto napoletano. Quattro film per la regia del grande Steno, e dei lavori che Spencer farà senza Terence Hill, ma con una spalla d'eccezione, l'indimenticato Enzo Cannavale. Cavù, qua ci sta un pezzo in più. Un pezzo in più? E com'è possibile? Chirù! E quello che fa qua? Ciao, Chirù! Vieni qua, ciao. Ma come, è venuto clandestino? Ehi, venuto clandestino. E allora l'ha già arrestato? E adesso dove lo mettiamo? A casa mia? No. Proprio a casa tua. Ah. E noi lo manteniamo. Noi? Vero? Vabbè, statevi bene. E si prosegue in parallelo, da un lato con Terence Hill per questo filone di manesco comico che è tutt'altro che in declino, e dall'altro con altri film. Ma con Terence Hill la formula è sempre quella: elementi fissi, le scazzottate in cui lui mena, tira schiaffoni, pugni tremendi, mentre Terence Hill è il bello, diciamo, della coppia, se la gioca con la velocità, con l'agilità. Poi le colonne sonore, che sono firmate in gran parte dagli Oliver Onions, erano i fratelli De Angelis, quelli di Sandokan, Orzuway, della famosissima Dan Buggy, proprio da un film di Spencer e Terence Hill, Altrimenti ci arrabbiamo, del 74. Anni di super lavoro, un film dietro l'altro, Più forte ragazzi e poi Porgi l'altra guancia, e ogni film si piazza nei posti più alti delle classifiche degli incassi. I due diventano veri e propri beniamini di più generazioni, con film che piacciono ai bambini ma che fanno ridere anche i genitori. E mentre in Italia cominciano a imperversare le pellicole sexy, Bud Spencer e Terence Hill presidiano, come dire, un'altra fetta del mercato cinematografico, i due superpiedi quasi piatti del 77, oppure pari e dispari, Io sto con gli ippopotami del 79. Sempre quell'anno Bud Spencer riceve un premio tedesco che viene assegnato alla star più popolare. Nell'81 torna al western a distanza di 10 anni dall'ultima volta, con Occhio alla penna, stavolta senza l'amico di sempre Terence Hill. Quando nel 1999 Roberto Benigni vince l'Oscar con La vita è bella, la rivista Time pubblica una classifica degli attori italiani più famosi al mondo. Al primo posto c'è Bud Spencer e al secondo Terence Hill. L'ultimo lavoro risaliva all'estate del 94, Botte di Natale, per la regia dello stesso Hill. E poi negli anni 90 Pedersoli comincia anche a trovare il successo televisivo con la serie Big Man, Detective Extra Large, Noi siamo angeli. Pieraccioni lo vuole in un film del 97, c'è un cameo di Bud Spencer che interpreta un suonatore di strada cieco nel film Fuochi d'artificio. Dove mi porti con tutti questi scalini? Siamo in un paese collina, fermo, fermo, ascoltami, allora. Si fa così, io ti do 50.000 lire e non se ne parla più. Se però lei non si affaccia, me le renti, va bene? L'ha studiata la canzone? Non è il repertorio mio, ma ci provo. Come ci provi? La devi fare! Ti do 50.000 lire, la fai bene! Serenata rap, serenata metropolitana. Mettiti con me, non sono figlio di puttana. Non credere alle cose che ti dicono di me. Sono tutti un po' invidiosi, chissà perché. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Con te questa sera ci sono io. Nel 2003 però Bud Spencer mostra al pubblico anche doti di grande attore drammatico, perché Ermanno Olmi lo chiama per il suo film Cantando dietro i paraventi. Proprio Ermanno Olmi che vuole per lui e per Terence Hill il David di Donatello alla carriera. Siamo nel 2010, la motivazione è questa: sono felice di vedere assegnare il David di Donatello alla carriera 2010 a Bud Spencer e Terence Hill, magnifici attori e amabilissimi galantuomini, indimenticabili eroi di tante fantastiche avventure, di giocosa ironia e sano divertimento. Resteranno sempre nel nostro affetto e nella storia di un cinema di qualità senza asterischi. Ermanno Olmi. Abbiamo raccontato di Carlo Pedersoli atleta, poi di Bud Spencer, di tutta la sua epopea, avventura cinematografica, però il nostro protagonista ha veramente tante facce, tante altre passioni: il volo, la scrittura, la musica. Insomma, proviamo a farcele a raccontare da una persona che lo conosce bene, Giuseppe Pedersoli, il figlio di Carlo. Buongiorno Giuseppe. Eccomi qua, buonasera. Allora, una delle costanti della vita di tuo padre è la passione per il volo, è vero? Ha pilotato aerei, elicotteri? Ma questa passione è nata in realtà sul set, perché quando girò nel 74 Più forti ragazzi, provò l'ebbrezza del volo e un giorno, dopo aver visto per tante settimane pilotare quelli che lo facevano professionalmente, decise di decollare da solo con grave preoccupazione dei produttori, del regista, di tutti, però poi riuscì anche a riatterrare. Quindi da lì, da quel momento in poi, è stata una passione incredibilmente forte. Senti, la sensazione è che tuo padre, ti do del tu, sì? Sì. Certo. La sensazione è che tuo padre sia, soprattutto, cioè, quello che trasmette è un incredibile amore per la vita, una grandissima energia. Ma lui com'è davvero? Cioè, che tipo di padre è stato quando eri piccolino? Beh, stai mischiando due cose importanti. Una è la passione per la vita, che è indubbia. Lui ha una positività a 360 gradi. Le cose brutte, per fortuna non ce ne sono state tante né gravi, ma qualcosa ovviamente c'è stato. Certo. Le cose brutte ha teso sempre a reagire con fatalismo, e quelle invece positive, non solo i grandi successi o le cose materiali, ma anche quelle, la famiglia e tante altre cose positive, le ha vissute con grandissima passione e grande entusiasmo. Io come figlio devo dire fino a 13-14 anni non l'ho neanche visto, perché era sempre in giro per il mondo a lavorare e io ovviamente andavo a scuola, quindi da una certa data in poi, intorno al 74-75, ho cominciato a qualche volta a viaggiare con lui o ad andare a trovarlo sul lavoro, ho scoperto un po' di più chi fosse mio padre. Certo, e com'era? Beh, è un uomo che è pieno di grande energia. Certo. Io tendo sempre a fare un paragone astronomico, è come Giove rispetto agli altri pianeti. Lui è una persona estremamente naturale, estremamente modesta anche se vogliamo, però è più grosso e più forte degli altri, che è la natura, che certo. Ci vuoi fare. Certo. Senti, Ermanno Olmi, quando ha motivato il Davide Donatello alla carriera, quasi si è scusato per aver considerato in passato film tipo quelli Bud Spencer e Terence Hill come li ha presi sotto gamba, si è scusato per averli considerati un cinema minore, riconoscendo poi invece il grande valore di quella cinematografia. Cosa dice tuo padre di questo riconoscimento arrivato nella seconda parte della sua carriera, diciamo? Beh, ovviamente gli ha fatto molto piacere, specialmente condividerlo con Terence. Dall'altra certo. parte, specialmente ha avuto dalle mani di Ermanno Olmi, con il quale poi ha fatto uno degli ultimi film, nel quale ha avuto un'esperienza diversa invece a tutto tondo come attore, perché lui ci tiene sempre a dire che non è un attore, è un personaggio. E certo. invece in quel film ha dovuto recitare, perché si confrontava con un regista con la A maiuscola, non che gli altri non fossero bravissimi professionisti, però sì, in realtà i tanti film, quasi un centinaio fatti con Terence Hill, 16 e tanti altri da solo, per qualche motivo sono sempre stati un po' considerati come un cinema di seconda categoria. Certo. La cosa incredibile è riscontrare ancora oggi a 87 anni che lui ha un pubblico come se fosse un divo di 30 o di 40 anni, per cui evidentemente quelle critiche, diciamo, degli intellettuali, che avevano anche ragione, perché insomma, con tutto rispetto per tanti attori importanti che abbiamo avuto nel nostro cinema, in fondo i loro erano dei film un po' semplici. Però in realtà poi evidentemente hanno trasmesso cose importanti, cose profonde, nelle quali il pubblico si ritrova ancora oggi, dopo 3 generazioni, 4 generazioni. Certo, senti, vorrei chiudere sfatando un falso mito, una leggenda, che vorrebbe tuo padre tifoso della Lazio. Ci sveli il mistero della... No, non è un falso mito, mio padre ha militato ai suoi tempi dello sport, del nuoto, nella squadra della Lazio di nuoto, con il sì. quale ha vinto tanti titoli, e quindi il suo cuore è diviso tra il Napoli e la Lazio. Oh. Ma per motivi, sì, non solo calcistici, proprio per affettivi, fedeltà, diciamo, certo. sì, affettivi e di fedeltà sportiva. Certo. Giuseppe, io ti ringrazio infinitamente, ci hai dato una grossa mano. Grazie a voi. Salutaci tuo papà. Con molto piacere. A presto, buon lavoro. Carlo Pedersoli, o se preferite Bud Spencer, oggi scrive libri, si dedica a un'altra delle sue passioni, come si legge nella sua pagina ufficiale in rete. Ora che il suo corpo sta invecchiando e non obbedisce più alla sua mente, che ha 28 anni, Bud si dedica al suo amore per la filosofia. E noi abbiamo voluto raccontare una vita come la sua, fatta di tanti meravigliosi colpi d'ala, perché saper cambiare è fondamentale per vivere una grande vita come quella di Carlo Pedersoli. O, ve lo ridico, se preferite, Bud Spencer. Se volete mandare i vostri commenti o segnalare altre vite su cui puntare i riflettori, come ha fatto Alessandro Loro, che a 10 anni ci ha scritto a testimonianza di quanto Bud Spencer abbia varcato i confini del tempo e dello spazio, se volete fatelo, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure venite a cercarci sulle pagine Facebook, Twitter, sui vari social, insomma, se volete sapete dove trovarmi.